24 mattino. Italia sì, Italia no. Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no. Ma questa è la vita. Se Virginia Raggi vincesse a Roma, per esempio, i cittadini romani dovrebbero dire no alle Olimpiadi nel 2024, no alla linea C della metropolitana, no allo stadio della Roma, ma perché lo dice lei, non perché lo dico io. Comando omicida, comando qua, comando qua, ma se c'è una partita... Guardi, io credo che il momento di massima onestà di Giachetti sia stato qualche tempo fa, quando in radio disse che non aveva le qualità per fare il sindaco di Roma. Da allora ci sono stati evidentemente dei cambiamenti, qualcuno ha telefonato a Giachetti chiedendogli di fare il sindaco, esattamente come quel qualcuno telefonò ai consiglieri di Roma chiedendo di dimettere, di far dimettere Marino davanti a un notaio, quindi questo un po' mi preoccupa. Tutti quelli che mi conoscono sanno perfettamente che se io ricevessi una telefonata per fare qualcosa, la telefonata cadrebbe. Ti devo una pinza. Ce l'ho nella panza. Quello che mi stupisce invece, onestamente, è leggere delle dichiarazioni come quelle fatte oggi dalla Boschi, che dicono che se il Movimento 5 Stelle dovesse governare questa città non arriveranno i finanziamenti. Mi pare che il Partito Democratico tratti i soldi dei cittadini come se fossero del partito e non dei cittadini, e questo devo dire che un po' mi preoccupa, ma per il rispetto che ha il Partito Democratico per la popolazione italiana che paga le tasse e contribuisce. Se vince Virginia Raggi, accadono delle cose a Roma. Noi saremmo molto leali con chiunque vincerà come governo. Ma è un problema dei romani se si dice di no alle Olimpiadi, si dice di no alla linea C della metropolitana, se si dice che sull'ATAC non vanno tolti i dirigenti come ha proposto Rettighieri. Buongiorno a tutti ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi, quando sono le 6:33 minuti su Radio 24, 24 mattina, un saluto ad Alessandro Milan che è in vacanza e per questa settimana ci sarò io a tenervi compagnia in questa prima parte della mattinata. Allora, la voce forse meno riconoscibile era la terza, quella della Appendino, candidata del Movimento 5 Stelle, sindaco di Torino. Le altre le avete riconosciuti, Marina Boschi e il duello tra l'altro candidato 5 Stelle, Raggi e Giachetti per quanto riguarda Roma, poi Renzi naturalmente. Buongiorno a tutti, 349-238-6666 anche su WhatsApp per dialogare insieme a quest'ora del mattino. E abbiamo tirato giù dal letto oggi Franco Bolelli, ciao Franco, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Filosofo, scrittore, tante cose, animatore di tante iniziative a Milano e non solo, uomo dalle visioni forti. Tra l'altro stanotte credo che tu abbia dormito 3 ore, perché se non sbaglio hai guardato la versione originale Il Trono di Spade, che va in onda a che ora? Alle 3, ma no, perché mi è stato vietato da mia moglie che vuole vederlo con me, per cui la guarderò registrata quando lei si sveglia. Io non so niente del Trono di Spade, mi piacerebbe, anzi, ora magari poi ci racconti, perché tu hai detto che Il Trono di Spade è un grande trattato di politica e potere, il più grande forse che sia mai stato scritto addirittura. Accidenti, sì, ma è anche il più grande trattato sulla condizione femminile, sulla costruzione della personalità, su un mucchio di cose. Credo veramente che sia la più grande opera della nostra epoca. E buongiorno anche ad Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, eccomi. Allora, questa è una di quelle mattinate nelle quali sicuramente, almeno io, avrebbe voglia di rinfilarsi sotto le coperte e non pensare a niente. La strage negli Stati Uniti, l'esplosione a Milano e gli incidenti agli europei di Francia, Marsiglia, non solo, non ce n'è una che vada per il verso giusto. Allora, consoliamoci che, insomma, forse la politica è il male minore, no? Che abbiamo di fronte tutti noi. Perrino, tanto per rimanere sulla politica, abbiamo sentito un po' di voci. Ci credi a questa strana alleanza su cui si è chiusa la settimana tra la Lega e il Movimento 5 Stelle? Tutti contro Renzi? Sì, sì, assolutamente sì. Anzi, proprio su Affari Italiani raccontiamo i contatti, abbiamo parlato con esponenti del massimo livello, soprattutto della Lega, e abbiamo indicato nomi e cognomi e incontri, e c'è una convergenza su alcuni obiettivi programmatici che probabilmente sarà la chiave di volta delle elezioni di domenica prossima. Però è una convergenza che viene ufficialmente, viene sostanzialmente smentita. Sì, ma questo fa parte del gioco della politica. Io ripeto e do garanzia che le nostre fonti sono del massimo livello e che gli incontri ci sono e sono molto operativi. Ma cosa prevederebbe questa strategia? Uno scambio di voti nelle città dove c'è il candidato del Movimento 5 Stelle dalla Lega verso di loro, sì, e viceversa? Sia possibile favorire l'uno o l'altro dei candidati e sfavorire il candidato di Renzi, diciamo, del Partito Democratico. Beh, del resto a Roma Salvini lo ha detto chiaramente, voterei per la Raggi se fossi a Roma, e probabilmente così faranno molti sostenitori del centrodestra. Però questo sta un po' nella natura delle cose. Il Movimento 5 Stelle ai ballottaggi è destinato sempre, no, a prendere i voti della parte non presente, cioè se al ballottaggio col centro-sinistra è chiaro che un elettore di centrodestra può convergere, no? Sono due formazioni politiche, entrambe diciamo a cavallo tra destra e sinistra, e quindi hanno in questo una natura comune e facilità di convergenza su alcuni temi, vedi l'Europa per esempio, e poi entrambe condividono l'idea di mandare a casa Renzi e tutto ciò che intorno a Renzi loro ritengono far parte del vecchio. Quindi su tutto questo potrebbe nascere veramente una straordinaria novità politica in Italia. L'alleanza Grillo-Salvini. Oltretutto Salvini ha il problema di smarcarsi da un centrodestra che con Berlusconi nelle condizioni di salute in cui si trova, e con la crisi politica che lo attanaglia da mesi se non da anni, diventa per il giovane Salvini una zavorra insostenibile. Sentiamo qualche altra voce, vai, sentiamo un Renzi. Direttore, se vince Grillo è perché prende un voto in più, quindi se vince Grillo è per colpa nostra, e comunque Grillo non vince perché noi siamo più credibili se siamo bravi. Allora, Franco Bolelli, tu come la stai vivendo questa campagna elettorale? Hai scritto da qualche parte che insomma è una campagna elettorale moscia, priva di visioni, la politica che vola basso, ed è questo il vero male, non la corruzione dei politici o gli scandali, eccetera. Proprio il fatto che insomma mancano delle visioni forti. Questo è un guaio ovviamente grosso, perché in un momento in cui il mondo sta cambiando a una velocità vertiginosa, tutti i processi si stanno accelerando, la mancanza, cioè un tempo noi avevamo abituati a considerare le grandi visioni come una specie di grandi sogni e utopie, oggi rischiano di essere la cosa più pragmatica, più concreta che abbiamo. Allora la non capacità di collegarsi con le grandi correnti del cambiamento, secondo me, di capire cosa sta succedendo nell'evoluzione per la politica, sta diventando veramente un peccato mortale. E io in questa campagna elettorale di tutto questo non ho visto assolutamente niente. Ma come mai, secondo te, succede questo? Di più. In un momento in cui ne sarebbe servita di meno, da una parte tra chi progetta, fa, inventa, costruisce, mette al mondo delle cose che il giorno prima non c'erano, e la gestione quotidiana politica di tutto questo, la sfasatura è aumentata purtroppo. Ecco, ma io sono abbastanza d'accordo con te, tant'è vero che in questa linea, anche se può sembrare lontano da quello che tu dici, un candidato come De Magistris a Napoli, uno che parla di rivoluzione, che dà delle visioni forti, che viene anche accusato di populismo perché lancia questi messaggi sull'acqua pubblica, sul giustizialismo, sulla partecipazione popolare, il senso della rivoluzione, secondo me una chiave di un risultato importante come quello di De Magistris è proprio che è in grado di dare questi messaggi forti, queste visioni. Perché invece normalmente secondo te i politici adesso sono privi di questa capacità di avere delle visioni? Io credo sia proprio un problema di DNA, cioè chi è abituato a progettare, a guardare ampio. Io non credo che la visione di Magistri sia una visione ampia, è una visione che però tiene conto dello stato del momento, dello stato d'animo del momento, in questo è molto intelligente. Io però quando parlo di visioni parlo veramente della capacità di costruire qualcosa di più grande. Cioè, se posso farti un esempio, ecco, sì, dai, anche diamo anche a Milano del Fiume Verde, sì, cioè mettere i 7 scali dismessi delle ferrovie, sì, dello Stato, e costruirci intorno una specie di Central Park che non è soltanto un grande polmone verde, ma diventa un luogo di attrazione, di aggregazione, di costruzione di, ad esempio, edifici per studenti, eccetera, eccetera. Quella è una visione che cambia il volto di una città. Il silenzio che ho sentito da parte dei candidati sindaco a Milano nei confronti di questa visione, secondo me è un silenzio veramente molto grave. Senti, tu sei molto più vicino naturalmente a Milano e hai seguito più il dibattito per quanto riguarda Milano. Sala ha un po' deluso le aspettative, adesso ha annunciato il coinvolgimento di Gherardo Colombo, l'ex magistrato simbolo di Mani Pulite, che guiderà il comitato per la trasparenza sulla dismissione del patrimonio pubblico per finanziare, così abbiamo letto, la ristrutturazione delle case popolari. Questa è una cosa su cui Sala punta molto. Beh, è un colpo a sinistra, un colpo d'ala, può tra servire, bastare in qualche modo a Sala a stoppare la rimonta netta che c'è stata di Parisi al primo turno, secondo te? No, io non credo che possa stopparlo, però è un segno interessante, nel senso che è un segno di vivacità, se non altro, che va mancata completamente fino adesso. Non credo che basti, perché il problema non è convincere, secondo me, anche se capisco che magari poi il risultato finale si giocherà sull'1-2% dei voti, ma non è un problema di quelli che hanno votato per i candidati più a sinistra, è il problema di quel 44% che si è astenuto, che sono tanti, per Milano, ragazzi, sono tantissimi, perché questa è una cosa strabiliante, è un dato incredibile, inaspettato completamente. Perrino, e secondo quel 44%, sì, o almeno una fetta solida di quel 44%, sì, non credo che sia questo il genere di cose che li porta immediatamente ad affezionarsi. È mancata una mistica in questa campagna elettorale, io l'ho visto dappertutto, non soltanto a Milano, è mancato qualcosa che riesca a uscire dalle contrapposizioni di schieramento e a riuscire anche a essere trasversale. Io credo che su tutte le grandi questioni vere che noi affrontiamo in questo momento sia quasi fisiologico che ci saranno degli schieramenti trasversali. Chiaramente tutto questo non può essere preso in un momento in cui c'è una contrapposizione tra due candidati. La sfasatura tua è anche questa. Perrino, perché Milano, secondo te, a Milano hanno votato così poche persone? Che è una cosa incredibile per questa città, no? Ma sì, questa in realtà è la grande notizia delle votazioni di domenica scorsa, è proprio il fatto che si accentui sempre di più questa lontananza della pubblica opinione dalle élite politiche e del potere. Accade questo perché la gente percepisce con chiarezza che all'interno delle élite politiche di potere si pensa solo a conquistare le poltrone e a ricavarne i vantaggi conseguenti in termini di denari e di arricchimenti e di, appunto, clientelismo, perché oramai la politica ha perso i suoi valori, ha perso i suoi indirizzi tradizionali e oggi è un luogo di arrampicatori e di famelici, ricercatori di pepite, ecco. Ahimè, la gente questo lo capisce, si tiene alla larga. Campagne elettorali vuote, si cerca il colpo di scena, il titolo sui giornali, i programmi sono libri che nessuno guarda. Poi si inventano, appunto, candidature come Colombo che possono far notizia e si arranca verso l'esito finale con queste facce sempre più scavate, sempre più... Oh, mamma, che ritratto, Perrino, mi stai facendo ridere. Ahimè, questa è la verità. Gli italiani scappano via da tutto ciò, e non solo gli italiani. Erano tutti al mare, dice un ascoltatore al 342-238-6666, Marco da Ravarino. Certo, com'era? Non era un bel tempo. Non era bel, infatti anch'io lo stavo cercando di ricordare. Identifica proprio questo, la nausea, ecco, sì, come su un libro di Sartre di qualche decennio fa. Sì, sì, del secolo scorso. Allora, poi vabbè, gli ascoltatori che mi dicono che non devo dimenticarmi di dire due parole per il Pisa promosso in Serie B, io perché io sono pisano, è vero. E questa è una grande soddisfazione. Manco dallo stadio, dall'Arena Garibaldi da molto troppo tempo, però il ritorno di una squadra che ha fatto anche un po' un pezzettino di storia del calcio. Con... Se lo ricordiamo in Serie A, anche certo. No, con Anconetani. Con Anconetani, ma poi da Pisa sono passati calciatori come Simeone, tanto per dire un nome su tutti. Adesso parliamo, dopo il traffico, anche un po' di calcio, se vi va, visto che stasera gioca l'Italia, anche se insomma mi sa che ce le suonano, eh. Mattino. Io voto no. Se tu non cambi la legge elettorale, io voto no. Vabbè, questo è Scalfari che intervista Renzi e propone una strana cosa. Dice: se tu non cambi la legge elettorale, io voto no alla riforma costituzionale. È un po' Perrino, è un po' strano come. Sono due cose diverse, però sono legate, questo sì. Scalfari ce lo può permettere, anche quello di violare una regola delle interviste, per cui ci si dà del lei, gli dà del tu, ma è Scalfari, quindi gli consentiamo tutto. Sì. Sentite, Franco Bolelli e Angelo Maria Perrino, vi devo chiedere, anche se è difficile commentare a caldo, non si hanno i particolari, quello che è successo in America, la strage di Orlando, parlavamo del trono di spade, la lotta per il potere, si vive, si muore, si lotta per il potere, è una fiction, una serie TV, ma racconta quello che è stato ed è la storia del genere umano. In America si muore per nulla in questo caso, perché basta davvero entrare nel locale sbagliato. Cosa vi sentite di dire, Franco Bolelli? Forse non so se hai seguito anche nelle ultime ore qualche cosa su questo. Anche lì una lotta di potere comunque, no? C'è i gay che si stanno allargando in America, stanno crescendo, e che appunto pare che un bacio per due uomini abbia scatenato. Questo è quello che dice il padre dell'attentatore, sì. Poi ucciso. Perché in molti giornali, adesso poi dopo nella rassegna stampa li leggeremo, parlano dell'ultima accoppiata fatale tra le armi e la follia umana, che insomma l'ultima delle stragi dei fanatici. Altri invece azzardano ipotesi sul fanatismo islamico. Franco Bolelli, tu io credo oggettivamente che tirare in ballo le armi su questa storia sia completamente centrato. Nel senso che non voglio dire che le armi debbano essere vendute liberamente, in questo senso l'America è abbastanza un'eccezione, però nello stesso tempo se tu sei un terrorista, uno spacciatore di droga, un delinquente, o se hai voglia di commettere qualcosa, le armi le trovi a ogni angolo di strada, anche qui in Italia. Non è questo il punto, io credo, cioè questa è retorica oggettivamente, anche se semmai sono gli incidenti domestici il problema delle armi in casa, non certo casi di questo tipo qua. Beh, io credo che, come dire, la matrice, il mix tra fanatismo religioso e psicopatologia personale in questo caso sia esplosivo, evidentemente. Qui abbiamo a che fare con un disadattato, come nella maggior parte dei casi di queste cose, ma non si può ridurre un disadattato, se è vero che due mesi fa l'imam della moschea di Orlando invitava ad uccidere i gay. E questa andiamo cosa, allora, perché se si dà più importanza al fattore armi, diventa una tesi, in qualche modo un'arma a favore di Hillary Clinton, che insomma i democratici contro l'uso delle armi si sono sempre contro il fatto che si possano comprare così facilmente, si sono sempre spesi di più dei repubblicani. D'altra parte, se invece si sottolinea più la tesi del fanatismo, è un'arma fortissima nelle mani di Trump, no? Certo, infatti appunto da destra non hanno accettato nessuna restrizione della possibilità di acquistare le armi. Diciamo che è un combinato disposto, no? In una società di squilibrati e di spostati, la facile acquisizione di armi rende il tutto un cocktail micidiale, e di questo c'è del tutto evidenza. Si muore la banalità del male, diceva Hannah Arendt, siamo davanti a 50 morti i cui familiari non capiranno mai il perché. La più grave, tra l'altro, strage in America mai avvenuta. Tu hai citato Hannah Arendt, allora vi devo fare anche questa domanda sul Mein Kampf pubblicato dal giornale, il testo di Adolf Hitler, l'uomo che ha fatto la seconda guerra mondiale, sterminato un sacco di persone. Il giornale dice: conoscere per rifiutare. Vi convince questa tesi, Franco Bolelli? Non deve convincermi, è chiaro che è una manovra brutta dal punto di vista dell'immagine che dai. Nello stesso tempo io credo che non si possano fare campagne contro la pubblicazione di libri o mai, secondo te mai, di libri. Non capisco perché, non credo che sia questo il punto fondamentale. Cioè, io sono ferocemente filo israeliano, per dirne una. Ho un'enorme simpatia nei confronti degli ebrei, eccetera, eccetera, però onestamente io non mi scandalizzerei per questa cosa. Ci sono molti ebrei che si sono scandalizzati fortemente per questo. E Perrino, tu che ne pensi invece? Ma io penso che i giornali sono sempre imprese commerciali e quindi questa è un'iniziativa. È chiaro che questa è un'iniziativa, questo è evidente. Il vantaggio conseguente fa il gioco di un qualsiasi iniziativa commerciale. Ciò premesso, sono per la libertà di informazione, dipende da come lo dai un prodotto, se lo dai con i necessari, le controindicazioni come nei medicinali, attenzione, questo farmaco fa male a questo e quello, si deve, si può fare, siamo una società adulta, siamo in grado di capire cos'è il nazismo e leggendo questo volume magari di comprenderlo meglio. Mi fate sentire De Luca che parla di Gomorra, perché voglio chiedere a Franco Bolelli che cosa ne pensa di questa discussione che va avanti da un po' sul fatto, insomma, se questa sia una macchia oppure sia un punto da cui ripartire la narrazione di Gomorra. Qualcuno ha osservato che non si diffondono i comportamenti camorristici vedendo i telefilm sulla camorra. A me pare un'osservazione francamente banale, ma credo che sia anche ipocrita non capire che quando parliamo di alcuni mondi, alcuni ambienti, c'è quasi il prevalere di modelli comportamentali, culturali, che vengono influenzati anche dalla comunicazione di massa. Franco, con una narrazione come quella di Gomorra si incentivano questi comportamenti? Si diffondono? Si incentivano perché li si rende in qualche modo più affascinanti di quello che sono. Questo è del tutto evidente che è così. Nello stesso tempo, però, questo è un luogo dell'immaginario. Cioè, se facciamo l'elenco di tutte le opere anche fondamentali della storia, della cultura umana, della letteratura, del cinema, eccetera, eccetera, in cui la violenza è stata mostrata in maniera efferata. Allora, chiudiamo, è finita. Dovremmo chiudere metà delle biblioteche. Questo chiudiamo è tutto. Chiudiamo allora, tutto. Non andiamo da nessuna parte da questo punto di vista. Si tratta di immaginario. È chiaro che quelli suggestionabili ne vengono colpiti in un certo modo, ma questa è parte del gioco, però. Dobbiamo chiudere, stasera gioca l'Italia. Io volevo chiedervi un pronostico anche su questo. Avete un pronostico Italia-Belgio? Sì, si vince. Io sono un contiano sfegatato e dunque anche per scaramanzia crediamo in quest'Italia. Sì, però Conte deve portare a casa un buon risultato prima di lasciarci a me per... Va bene, devo chiudere. Grazie Angelo Maria Perrino e grazie Franco Bolelli. Buona giornata, noi ci risentiamo dopo il GR con la rassegna stampa. Ciao, a dopo. Il segnale orario vi è offerto da Vendi bene e incassa meglio. Assicom, marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Mattino. Buongiorno a tutti ascoltatori, quando sono le 7:18 minuti riprendiamo con 24 Mattina, oggi al microfono Alessio Maurizi e un grande abbraccio invece ad Alessandro Milan che, beato lui, è in vacanza per una settimana, giustamente meritato riposo. Noi invece siamo qua, 349-238-6666 se volete scriverci e dialogare con noi mentre diamo un'occhiata ai giornali di oggi. Oggi, l'ho già detto, è una di quelle mattinate nelle quali uno si rinfilerebbe sotto le coperte, perché le notizie che arrivano sono terribili. La strage nel locale in America, Orlando, una cinquantina di morti, ma l'esplosione a Milano in una casa, ci sono state anche qua 3 vittime, e poi gli incidenti scusate, agli europei di Francia. Nemmeno dal grande evento sportivo atteso per portarci un po' di sana distrazione possiamo avere qualche momento di respiro. Forse, allora l'ho detto anche prima, possiamo rallegrarci con le notizie, la politica, siamo in corsa verso i ballottaggi, la politica che in fondo, se ci pensate bene, davvero è il male minore che ci può arrivare. Titoli dei giornali di oggi, tutti dedicati a Orlando negli Stati Uniti. Diamo un'occhiata proprio ai titoli, alle parole scelte. Intanto mi casca la bottiglietta dell'acqua. Allora, terrore nel locale gay, scrive il Corriere della Sera, titolo, come si diceva un tempo, a 9 colonne. Killer di origini afghane entra, spara e fa strage, 50 morti, oltre 50 feriti. Fedele all'ISIS, il califfato rivendica, e Obama però dice: noi non cambieremo. E chiaramente, insomma, molti editoriali si buttano sul quanto questo attentato, su questo momento di terrore, influirà il voto per le presidenziali americane. Repubblica, strage nel club gay, la firma dell'IS, qui si usa la parola strage. La Stampa, attacco all'America nel nome dell'ISIS, e poi massacro ISIS nel club dei gay, scrive il Messaggero. Ma insomma, questo è il tono, il tenore di tutti i giornali. Il giornale stesso, Stati Uniti, 50 morti, l'ISIS fa strage di gay, l'Occidente guarda la sua sottomissione. Il killer di 29 anni ucciso nel Blitz, la rivendicazione dello Stato Islamico. E qui il commento è affidato a Magdi Cristiano Allam, che ci va giù così leggero: l'Islam odia tutte le libertà, ecco quale sarà la sorte di noi italiani, noi europei, noi occidentali, qualora sciaguratamente dovessimo essere sottomessi all'Islam. E allora andiamo, poi ci sono, insomma, c'è spazio anche per altre notizie, non molto a dire la verità. Dicevamo, la campagna elettorale, la corsa verso i ballottaggi, la Stampa, sindaci, il duello Appendino Boschi infiamma il ballottaggio di Torino. Il duello Appendino Boschi sulla questione dei finanziamenti, perché sapete, Maria Elena Boschi, ministro per le riforme, ha detto: attenzione, se vince il Movimento 5 Stelle, Torino rinuncia a un sacco di soldi che sono quelli legati al progetto per la salute della città della salute. E l'Appendino ha replicato: beh, così però il PD tratta questi soldi come se fossero soldi suoi invece che soldi pubblici. E questo è quello che accade a Torino. Per quanto riguarda Roma, sempre interviste televisive, anche in questo caso in mezz'ora, l'alto duello tra Giacchetti e Virginia Raggi è il secondo titolo principale del Messaggero. Raggi-Giacchetti, duello televisivo, scontro sulle Olimpiadi. La grillina che dice per ora è no, cioè un per ora, e quindi c'è quasi un piccolo cambio di rotta sul no alle Olimpiadi, per ora dice Virginia Raggi è no, e Giacchetti che dice sono 170.000 posti di lavoro, mi sembrano tanti, io inizio già a dirlo, caro Giacchetti, 170.000 posti di lavoro, siamo abituati a stime strabilianti prima dei grandi eventi, che poi spesso vengono parzialmente, totalmente, in parte smentite, quasi mai superate poi dalla realtà, questo bisogna pur dirlo. Andiamo a leggere qualche commento, qualche dettaglio di cronaca sulla strage di Orlando. Che dire? Allora, sempre dal Corriere. Allora, intanto si tratta di una vera escalation negli ultimi anni, è il più grave attentato, 50 morti, 53 feriti, un bilancio ancora necessariamente in parte provvisorio, ed è la strage in questo senso, proprio numericamente più grave, la sparatoria più grave che sia mai avvenuta negli Stati Uniti. Se guardiamo all'elenco delle più gravi stragi e sparatorie degli ultimi decenni, vediamo che dal 2008, 2009, 2010 c'è stata una accelerazione, quasi un terzo forse di tutte le sparatorie più gravi sono avvenute negli ultimi 5 o 6 anni. Tanto per restare sul recente, Charleston 9 vittime nel 2015, a Washington 12 vittime nel 2013, a San Bernardino poi naturalmente come dimenticarlo l'anno scorso anche qui 14 vittime e solo nel 2009 3 stragi gravi con una decina di vittime, quindi una purtroppo un'accelerazione del binomio follia umana, armi, e in questo caso però c'è anche l'ombra del terrorismo, perché c'è la rivendicazione dell'ISIS, c'è il padre della vittima che ha rilasciato dichiarazioni. E allora leggiamo per esempio Guido Olimpio sul Corriere che dice: il lupo spietato vicino casa, Omar Mateen, è l'assassino che ogni fazione estremista desidera. Il militante perfetto, nato negli Stati Uniti, la possibilità di vivere tra le sue future vittime, un lavoro che gli ha permesso di addestrarsi a sparare e di comprare le armi necessarie per consumare il Bataclan della Florida. Sarà l'inchiesta ad accertare che tipo di legame c'è tra il terrorista della porta accanto e l'ISIS. Intanto c'è una rivendicazione, mentre le informazioni parlano del padre filo talebano e della sua dichiarazione di fedeltà al califfato, esattamente come fecero i killer di San Bernardino poco prima di tirare a raffica sui colleghi di lavoro. L'ombra che cala sul voto americano. Massimo Gaggi dice: è iniziata la via crucis dell'America verso il voto di novembre. E questo collegamento importante viene fatto anche da altri, naturalmente Alexander Stille, per esempio su Repubblica, che dice: l'orrore che cambia la corsa elettorale. Vediamo, certo, vari gruppi islamici americani hanno condannato l'attacco insistendo che è profondamente contrario ai loro principi religiosi ed etici, ma siamo in piena campagna elettorale e mentre Hillary Clinton ha insistito con l'impegno a tenere le armi lontano dalle mani dei terroristi e altri violenti criminali, e ci mancherebbe, perché non c'è posto, sempre virgolettato di Hillary Clinton, per le armi da guerra sulle nostre strade, dall'altra parte Donald Trump ha suggerito un blocco totale dell'immigrazione musulmana nel paese. E insomma, sappiamo quanto Trump abbia puntato su questo argomento durante la campagna elettorale, con risultati in termini di consensi positivi, perché ha in mano la nomination repubblicana. Ho avuto ragione io, serve il pugno di ferro e questa strage gli rinforzerà la mano, scrive Alexander Stille, che poi prosegue: gli attacchi terroristici di solito hanno avuto l'effetto di spostare l'opinione a destra, l'opinione elettorale, almeno nel breve termine. Questo riaccenderà però dall'altra parte anche il dibattito sull'accesso facile alle armi, un tema che Hillary Clinton ha sottolineato spesso nella sua campagna elettorale. E quindi si vede chiaramente quali siano i due lati della possibile strumentalizzazione, si può dire senza ipocrisie, ai fini elettorali di questa strage. Se si sottolinea il legame, la rivendicazione dello Stato Islamico, le dichiarazioni del padre di Mateen, Mir Sedik, che è intervistato alla rete televisiva NBC, ha sostenuto: ciò che è avvenuto non ha niente a che fare con la religione, spiegando che forse la strage è legata a un incidente, l'ira del figlio provocata quando vide due uomini baciarsi a Miami un paio di mesi fa. L'anatema nei confronti dell'omosessualità, secondo tradizione islamica, e il fatto che sia ancora criminalizzata in molti paesi musulmani accenderà di nuovo il dibattito attorno alla compatibilità dell'Islam con la democrazia. La famiglia di Mateen viene dall'Afghanistan, dove l'omosessualità è proibita e qualche volta anche punita con la morte, mentre il padre Mir è sospettato di legami con i talebani. E quindi da questa parte dell'interpretazione evidente sono armi a favore di Donald Trump, che propone il blocco dell'immigrazione, la chiusura in particolare all'immigrazione, ma in particolare alla componente islamica, che sarebbe incompatibile con l'America. Se invece d'altra parte si mette in evidenza ancora una volta il ricorso facile alle armi, la possibilità di acquistare armi, è una tesi questa cara soprattutto ai democratici, e infatti Hillary Clinton subito ha toccato questo tasto, che però in questo momento, visto la forza di questa rivendicazione e il Bersaglio, un club gay, insomma sembra proprio che la questione delle armi certamente c'entri, ma che rispetto ad altre stragi, ad altre sparatorie del passato possa essere in qualche modo minore l'importanza di questo, da questo punto di vista. Voglio leggere anche altre parole, quelle di Maurizio Molinari, direttore della Stampa, che a lungo corrispondente dagli Stati Uniti conosce questo paese e così interpreta quello che è accaduto in America. Ad Orlando il titolo della Stampa è "Attacco all'America nel nome dell'ISIS, strage in un locale gay in Florida, giura fedeltà al califfo, spara, 50 morti e 53 feriti". Scrive Molinari: "Il più sanguinoso atto di terrorismo compiuto contro gli Stati Uniti dagli attacchi dell'11 settembre riassume i tre elementi chiave dell'identità del nemico da cui le democrazie devono difendersi. Primo, Omar Sadiq Martin ha scelto come obiettivo omosessuali, lesbiche e transgender, in quanto considerati impuri, appestati da un'ideologia totalitaria che identifica nei diritti dei gay l'estrema degenerazione delle democrazie occidentali. Secondo, il killer che ha ucciso a sangue freddo almeno 50 esseri umani era nato a New York da genitori afghani ed è stato contagiato dal verbo jihadista da messaggi digitali e non che l'ISIS diffonde come virus per reclutare ovunque, trasformando gli esseri umani in kamikaze. Terzo punto, ciò che nutre tale virus è l'identificazione con la violenza, la passione per la morte e la vocazione al martirio islamico. Riconoscere l'identità di un simile nemico è il primo passo da compiere per poterlo battere". Questa è l'interpretazione di Maurizio Molinari, direttore della Stampa. Ripeto, il primo punto è l'obiettivo, un club di omosessuali che vengono identificati come l'ultima, la più grave forse forma di degenerazione occidentale, una società odiata da queste personalità folli ma anche ideologicamente ammaestrate. Secondo, un killer di origini afghane addestrato al jihadismo. Terzo, la familiarità con la violenza. Questi sono gli elementi del nemico che, dice Maurizio Molinari, le democrazie occidentali devono imparare a conoscere e a fronteggiare. Ci fermiamo un attimo per il traffico, torniamo tra pochissimo. Mattino. Eccoci qua di nuovo, buongiorno ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con 24 Mattino e la lettura dei giornali di oggi, una rassegna stampa che ci accompagna verso il giornale radio delle 8. Tenetevi forti perché il commento, il prossimo che stiamo per leggere, è quello di Magdi Cristiano Allam, che il titolo "L'Islam odia tutte le libertà, in particolare le libertà sessuali". Ecco cosa scrive Allam: "Ecco quale sarà la sorte di noi italiani, noi europei, noi occidentali, qualora sciaguratamente dovessimo essere sottomessi all'Islam. Sadiq Martin, lo stragista del locale gay Pulse a Orlando, 29 anni, cittadino americano dalla nascita, di origini afghane, fosse o meno organico all'ISIS o ad altre sigle del terrorismo islamico, è indubbio, qui è il punto, che la condanna a morte degli omosessuali corrisponda a ciò che Allah prescrive letteralmente e integralmente nel Corano, a ciò che ha detto e fatto Maometto nella prassi nel corso di 1400 anni di storia dell'Islam. A oggi tutti gli stati islamici, nonostante abbiano formalmente sottoscritto la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sanzionano in un modo o nell'altro l'omosessualità come reato, mentre la condanna a morte degli omosessuali è ufficialmente vigente in Iran, Arabia Saudita, Pakistan, Nigeria, Sudan, Somalia e Mauritania. Sono parecchi stati, questo lo dico io. Non è affatto casuale", prosegue Allam sul giornale, "che gli omosessuali siano vittime predilette sia dei terroristi islamici che li lanciano dai tetti di edifici alti e poi vengono lapidati a morte, sia di stati islamici che noi occidentali consideriamo addirittura moderati che li impiccano ostentatamente nelle pubbliche piazze di fronte alle moschee dopo la preghiera collettiva del venerdì". Succede, e qui Magdi Allam si addentra in una interpretazione coranica, succede perché tutti i musulmani sono tenuti a sanzionare il rapporto anale definito liwat, a prescindere dal sesso di chi lo subisce, dove l'omosessuale è indicato come Luti, dal nome di Lot, nipote di Abramo, che per l'Islam è un profeta salvato da Allah dopo aver distrutto Sodoma e Gomorra. Nel Corano si legge: «Vi accosterete voi a lussuriosamente agli uomini anziché alle donne? Siete certo un popolo ignorante», ma la sola risposta del suo popolo fu: «Scacciate la famiglia di Lot dalla vostra città, perché son gente che vogliono farsi passare per puri». L'Islam che noi tuteliamo, nell'Islam che noi tuteliamo, scrive il giornale, non c'è spazio per la libertà. E questo è il commento, un'interpretazione che, a dire la verità, non è solo quella di Magdi Allam, ma c'è, leggevamo prima anche Alexander Stille su Repubblica. Adesso però lasciamoci un attimo alle spalle la strage di, in America, in Florida, e abbiamo detto che è una di quelle giornate nelle quali si sarebbe meglio rinfilarsi sotto le coperte, perché sono tante le brutte notizie. Anche solo per restare in Francia, in Europa, invece di allietarci con la parte sportiva, gli europei ci stanno mettendo di fronte al fenomeno degli hooligans che ritornano. Pensavamo fosse un qualche cosa che ci eravamo in parte almeno lasciati alle spalle, ma non è così. Parigi vieta l'alcol agli hooligans, ma la sicurezza fa ancora acqua. Questo è il titolo, forse anche con un gioco di parole, di Repubblica, con l'inviato Anais Ginori, che scrive: «Dopo aver devastato il centro di Marsiglia, gli ultra russi sono riusciti a portare dentro al velodromo addirittura dei razzi. Sotto accusa questa volta c'è l'UEFA, a cui spettano i controlli dentro gli stadi, e che ieri ha dato un ultimatum a Russia e Inghilterra minacciando di squalificare le squadre in caso di nuovi incidenti. Un'ipotesi a cui pochi credono, ma che dà la misura dell'impotenza e dell'impreparazione degli organizzatori». Vabbè, insomma, l'UEFA ha annunciato l'apertura di una procedura contro la Federazione Russa. Il governo francese, concentrato sulla minaccia terroristica, ha palesemente sottovalutato la gestione degli hooligans, scrive il corrispondente di Repubblica da Parigi. Il ministro dell'Interno ha deciso ieri di vietare la distribuzione di alcol nelle zone considerate più pericolose. Una misura però tardiva e paradossale, visto che uno degli sponsor di Euro 2016, manco a farlo apposta, è la birra Heineken. A confermare l'inadeguatezza delle autorità francesi c'è il numero di fermi per gli scontri di Marsiglia, solamente 10. Non sono in effetti tanti, visto il casino che si è visto. Tra gli arrestati, russi, inglesi, ma anche un austriaco, un tedesco e alcuni francesi. Segno che il problema non è solo russo o inglese, ma insomma riguarda proprio la gestione della sicurezza degli stadi in queste ore delicate in Francia. Poi stasera tocca all'Italia a giocare, quindi forza azzurri, ne parleremo tra poco, dando una sbirciatina, come si fa sempre alla vigilia, alla formazione dell'Italia. Ma fatemi andare sul Sole 24 Ore, titolo: casa, affitti in caduta, canoni giù fino al 30%, il Sole del lunedì. Allora parola a Maurone, detto anche Mauro Meazza. Ciao Mauro. Buongiorno, buongiorno. Oggi ci sono io, accontentati. Oggi ci sono. No, ma sono invece molto contento. Vabbè, ci sono debosciati ovviamente anche di tutte le risme all'interno del nostro palazzo, e dobbiamo farcene una ragione. Farli lavorare tutti, certo. Vorrei allora dare lettura. Tu sai che come ogni lunedì io salgo sulla sedia e recito la poesia. Cioè noi non ti vediamo sulla sedia, ma lo immaginiamo. Chiudo gli occhi e ti immagino. Sono già sulla sedia, sto per leggere gli endecasillabi del lunedì, di questo lunedì 13 giugno. Vadi, professore. Comprendo quanto tu sia poco avvezzo, mio caro Alessio, a questo dire in rima, ma a tollerare devi il mio gran vezzo, che da domani parlo come prima. E sappi ch'oggi il Sol 24 Ore presenta degli affitti le disfatte, e l'IMU sulle imprese con furore, e poi i nuovi voucher del Giobatte. Ancora li consigli dell'esperto per chi vede vicina la pensione, ed or può dimandar con viso aperto lo part-time con la retribuzione. Di questo e molto altro avrai spiegato, ma ascolta bene qui chi ti consiglia. Domani con il Sole avrai allegato l'economia spiegata alla famiglia. L'inflazione i tassi, le monete ed altre astruserie che non son male verranno svelate tutte in acque chete nell'imperdibil nuovo manuale. Orsù, Maurizio mio, non ti crucciare, che Milan viene e va come un elastico. Tu leggi il sole e poi fammi annunciare anche questa mattina il nostro traffico. Quattro mattino. Buongiorno ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi e state sereni perché Alessandro Milan dov'è? C'è qualcuno che scrive all'SMS. In vacanza, beato lui. E allora qua ci sono io per questa settimana. Poi è vero, scrive un ascoltatore che non si firma, non si interrompe così un'emozione. Al traffico, in effetti devo dire che insomma Mauro Meazza decasillabi, lo ascolteresti, continueresti ad ascoltarlo finché poi appunto non giunge l'interruzione del traffico, la doverosa però anche qui informazione, chissà magari un domani potremmo proporre ai colleghi di fare anche il traffico in decasillabi, però insomma prepararsi in tempo reale non deve essere la cosa più semplice del mondo. Allora, riprendiamo il filo della rassegna stampa e andiamo a l'ultimo argomento di quelli che ti mettere voglia di ritornare sotto le coperte la mattina anziché alzarti e affrontare la giornata, perché insomma l'esplosione a Milano. I fidanzati, la mamma nella casa esplosa, la vittima del gas a Milano, scrive il Corriere, il bocconiano e la ragazza in posa con il rocker del Bataclan, già perché è apparsa una foto di Riccardo Maglianesi e Chiara Magnamassa morti nello scoppio con Jesse Hughes, il frontman della band Eagles of Death Metal, che ricorderete erano stati protagonisti della serata del Bataclan di Parigi. Una curiosa coincidenza questa, ma al di là di questo è incredibile come ancora oggi possano avvenire degli incidenti gravi, mortali come questo. Il quotidiano Il Giorno ne fa la pagina principale con incubo, gas, le bombe in casa e in effetti l'editoriale di Fabrizio Lucidi scrive: Viale Monza nel 1994, 7 morti e 15 feriti. Via Lomellina nel 2006, 4 morti e 26 feriti. Via Brioschi, ieri 3 morti e 14 feriti. È il bollettino della guerra regolarmente persa contro un nemico silenzioso quanto pericoloso, il metano, perché abbiamo le bombe a orologeria piazzate nella cucina di casa e non ce ne accorgiamo. O meglio, facciamo finta di nulla, da decenni. Quest'anno, nella sola Milano, sono dati incredibili, Ci sono stati 38 interventi dei vigili del fuoco per esplosioni causate da impianti a gas. A Milano, la città, non voglio dire la città più moderna, più sviluppata, più avanti d'Italia, ma insomma sicuramente non l'ultima, 38 interventi. Tanti non si sono trasformati in notizie di cronaca nera per puro caso, perché la casa era vuota o l'esplosione non ha investito in modo letale nessuno. Resta il fatto che migliaia di appartamenti a Milano, ma la stessa cosa immagino che accadrà nelle altre città italiane, in milioni di alloggi in Italia, appunto, scrive l'editoriale sul Giorno, i fornelli sono quelli progettati negli anni 70, moltissimi ancora senza meccanismi salvavita e nessuno controlla. Eppure basterebbero regole certe, controlli ferri per evitare decine di morti ogni anno in tutta Italia, imponendo le verifiche dei tecnici e la sostituzione dei fornelli. Già, perché non fare un piano nazionale di investimento pubblico, visto che si spendono e spandono tanti miliardi in cavolate o in cose meno vitali che non salvare appunto le vite umane, in un piano come questo, cioè per la messa in sicurezza degli edifici, l'abbiamo sentito dire mille volte, dal rischio sismico ma anche da rischio legato a impianti di riscaldamento e di gestione del gas vecchi, antiquati, che sono delle vere e proprie bombe, non aspettiamo che a farle saltare sia qualcuno che ha cattive intenzioni nei nostri confronti, ma almeno queste che possiamo farlo noi stessi, preveniamo le 3 morti che si potevano prevenire. Bisogna farlo un piano del genere, un piano di investimenti che darebbe da lavorare anche a un sacco di gente, tecnici, geometri, architetti, geologi, operai, idraulici, elettricisti, tutti al lavoro per migliorare la sicurezza degli edifici italiani. Perché non farlo? Insomma, davvero, questa è una domanda, però c'è una domanda retorica, perché bisognerebbe assolutamente farlo, sarebbero soldi spesi bene. Sfido chiunque a dire no, questi soldi sono spesi male. Per esempio, in campagna elettorale verso i ballottaggi, perché nessun candidato sindaco fa un discorso del genere? Si parla di tante altre cose giuste, importanti, come per esempio la questione delle Olimpiadi a Roma. E allora è questo che c'è sui giornali di oggi. Per esempio, il Messaggero, Razzi, Giachetti, duello TV e scontro sulle Olimpiadi. È andato in onda ieri in TV, a in mezz'ora. Arriva la Raggi e arriva Giachetti, che dice: dopo una ventina di volte finalmente ci vediamo. Dice Giachetti a tu per tu a Virginia Raggi, e lei replica, che ha la battuta molto pronta, la candidata del Movimento 5 Stelle, dice: forse era lui che mi rincorreva, con allusione al fatto che Giachetti è indietro nella corsa per i ballottaggi. Sulle Olimpiadi del 2024 Raggi resta per il no, ma declina il no a modo suo. Surfa, scrive il Messaggero, tra un sono un'occasione di sviluppo e non sono una priorità. Attenzione, parole sfumature, ma che danno il senso dell'equilibrismo. Giustamente, è un politico. Critica il piano industriale del CIO, del Comitato Olimpico. La Raggi ribadisce che le priorità sono altre, salvo dire che il mio è un no oggi. Anzi, un no per il momento. Giachetti invece pensa il contrario e si lascia andare così. Non possiamo perdere questa occasione, altrimenti la città rimane ferma. Le Olimpiadi sono emozioni, ma eredità per Roma e 170.000 posti di lavoro. L'ho già detto, a me 170.000 posti di lavoro per le Olimpiadi, non so se ci sono scritte nel piano industriale del CIO, ma mi sembrano tante, eh? Mi sembrano un'enormità. Posti di lavoro temporanei per quel periodo sicuramente tanti, ma 170.000 posti di lavoro come eredità sono tanti per una città come Roma. Però queste sono le discussioni che si fanno. Invece a Torino si fanno altre discussioni, e le discussioni sono il botta e risposta tra il ministro Boschi e il candidato del Movimento 5 Stelle, anche qua PD, Grillini, che si fronteggiano sui famosi 250 milioni di euro stanziati dal governo per il Parco della Salute. Scrive il Fatto Quotidiano a tutta pagina: ora la Boschi gioca sporco, la ministra minaccia di tagliare i fondi di governo se il Movimento 5 Stelle vince a Torino. Inizia così: se vince l'Appendino, Torino perde 250 milioni di euro stanziati dal governo per creare il Parco della Salute, di questo mi preoccuperei. Sempre siamo in TV, in questo caso a Sky TG24, intervistata da Maria Latella. Questa è la Boschi, replica l'Appendino a mezz'ora e dice: mi preoccupano le affermazioni della Boschi che dice che se vincono i 5 Stelle non arriveranno i finanziamenti. Mi pare che il PD tratti i soldi dei cittadini come se non fossero dei cittadini, ma giustamente soldi loro. Lo stesso Fassino, che sfida l'Appendino al ballottaggio di Torino, il candidato sindaco del PD, a questo punto non nasconde un certo imbarazzo per la minaccia governativa. Non credo sia nelle intenzioni del ministro Boschi qualsiasi atteggiamento di questo genere, ha detto Fassino. Poi il ministro replica su Twitter: ma perché l'Appendino dice bugie su di me? Parli di Torino, non del governo. Segue ulteriore controreplica dell'Appendino. Quindi Boschi smentisce le sue parole? Niente affatto, chiude il ministro. Confermo, se rinunciate al progetto, rinunciate al finanziamento. Non è un ricatto. Legga Chiamparino. E questo è così che si chiude questa polemicuccia. Poi, voglio se lo trovo l'intervista a Maria Stella Gelmini su Libero, per andare alla città di Milano. Un'intervista dal titolo così, no? Non ho fidanzati, ma sono innamorata. E questa è la scelta titolistica di Libero, che intervista Maria Stella Gelmini. Sono orgogliosa, poi si capisce perché c'è un riferimento politico, sono orgogliosa delle mie origini bresciane, ma in questa campagna elettorale mi sono innamorata. Ah, dei milanesi. Sono straordinari. Così la Gelmini, che poi commenta il bel risultato di Parisi, e poi però sulla questione sentimentale fidanzati, dice Dago Spia me li attribuisce, ma non è vero niente. Che peccato. Guardi, ho elaborato il lutto della separazione quando la sera torno nella mia casa vuota, mi monta dentro una serenità. La solitudine, se scelta e non subita, è stretta parente della felicità. Avrà un sacco di pretendenti. Con il lavoro che faccio sono sempre in mezzo agli uomini, in un clima spesso cameratesco, e sono arrivata a conoscerli troppo bene perché scatti qualcosa. Ai ai ai, questa è la Gelmini che non si innamora più. Però fatemi chiudere con la formazione, se la trovo, dell'Italia. Di stasera, Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Candreva, Parolo, De Rossi, Giaccherini, Darmian, Pelle, Eder. E con questa formazione andiamo a sfidare il Belgio. Vinceremo? Vinceremo. Giornale Radio ci... No, vi lascio la parola a Oscar Giannino che prosegue la mattinata di 24 Mattina. Ciao a tutti, ci risentiamo domani mattina da Alessio Maurizi. Ciao!